Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia. Acclamate Acclamate al al Signore Signore tutta tutta la la terra. terra. Alleluia, Alleluia, alleluia. alleluia. Ha salvato la nostra vita. Alleluia, Alleluia, alleluia. alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Acclamate al Acclamate al Signore Signore tutta tutta la la terra. terra. Alleluia, Alleluia, alleluia. alleluia.